Domani, venerdì 24 febbraio, suoneranno live al Gallery 16. Loro sono le Lay Bay e io sono qui per parlarne con una delle due componenti, Silvia. Ciao Silvia, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto Silvia, ti va di raccontarci un po' chi sono le Lay Bay, quando nasce questo progetto, ecco? Sì, allora le band sono nate nel 2006, un po' come tutte le band, diciamo, abbiamo cominciato con le cover, poi praticamente subito ci siamo un po' stancate di fare i pezzi degli altri, abbiamo cominciato a scrivere pezzi nostri e quindi abbiamo registrato un paio di demo, poi abbiamo registrato un primo album con l'aiuto di Giovanni Garoia e di Germano Bonaveri e poi abbiamo registrato un album quasi tutto in italiano con Cristiano Santini invece di Disciplinata, che si chiama Incauda Venenum, uscito nel 2010. Quel periodo insomma abbiamo fatto parecchi live anche fuori insomma da Bologna. Dopo abbiamo avuto un periodo un attimo di pausa e abbiamo ripreso a suonare e poi nel 2020 abbiamo pubblicato un altro album che si chiama My Earth, My Heart, questo invece è quasi è tutto in inglese e c'è stata proprio una svolta elettronica in quest'ultimo album, quindi abbiamo abbandonato la batteria, abbiamo cominciato a comporre e campionare noi le basi e quindi insomma appunto qui c'è stata un po' una svolta, prima avevamo un sound un po' più grande e stoner e invece adesso ovviamente l'elettronica è una bella componente del nostro progetto. Purtroppo il nostro ultimo album è uscito proprio praticamente il giorno in cui è cominciato il lockdown, quindi insomma da lì c'è stato un po' di stop. Ovviamente nel frattempo abbiamo già scritto pezzi nuovi e quindi stiamo già anche proponendo dal vivo questi nuovi brani. Ecco, a proposito dei live, dicevamo venerdì 24 sarete al Gallery 16, che cosa porterete sul palco? Dunque suoneremo quasi tutti i pezzi dell'ultimo album, porteremo un brano invece del nostro primo album, perché l'abbiamo rivisto in chiave elettronica e abbiamo anche girato un videoclip e poi porteremo invece anche una cover che non vediamo perché non l'abbiamo mai portata da vivo, è la prima volta, domani, anzi il 22 è stata una data molto particolare per chi è appassionato di musica e ci conosce da un po', sa che insomma è stata una data purtroppo non felice, il 22 febbraio e quindi insomma vogliamo omaggiare uno dei nostri musicisti preferiti domani sera. Intanto approfitto per dire che i videoclip che abbiamo girato sono tutti su YouTube, quindi li trovate sul nostro canale semplicemente cercando Lay Bay, il canale si chiama Lay Bay Tube. Insomma sono video sia professionali sia alcuni meno, nel senso che uno l'abbiamo girato durante il lockdown, quindi abbiamo girato a distanza io ed Erika con i cellulari, mentre la dottrina insomma l'abbiamo sempre girato noi. A proposito di video e di brani, ora ci ascolteremo appunto un vostro pezzo che si chiama Up to Me. Che cosa racconta? Ti va di parlarcene? Perché anche in questo caso, se non sbaglio, avete girato un videoclip per la canzone. Up to Me è il primo singolo che abbiamo fatto uscire appunto dall'ultimo album che è My Heart, My Heart. In questo caso ci siamo fatti aiutare da una professionista che sarà un tiro. Abbiamo collaborato anche con importanti associazioni animaliste come Essere Animali, Animal Equality, Cruelty Free International e insomma diciamo che come un po' tutti i nostri video cerchiamo di dare un messaggio ma anche un risvolto positivo. È un video molto crudo, alle persone non piace guardarlo perché racconta un po' le crudeltà che subiscono gli animali non solo dal punto di vista alimentare ma anche dal punto di vista diciamo farmaceutico ad esempio e anche come il nostro pianeta subisce poi queste crudeltà, però insomma abbiamo voluto dare un risvolto positivo perché diciamo c'è sempre una seconda chance. Il testo della canzone dice proprio it's all up to me, cioè dipende tutto da me, non da te, da me, quindi se io per prima posso fare nel mio piccolo proprio anche una cosa minima per non pesare perlomeno sul pianeta, sull'ambiente che ci circonda, sicuramente sarò di grande aiuto. Questo, diciamo, è quello che è il messaggio che cerchiamo anche sempre un po' di portare. Noi ci stiamo avvicinando da anni al veganismo, è una, diciamo, condotta di vita veramente difficile, perché non ci si limita soltanto al cibo, ma ovviamente significa anche non comprare più vestiti che derivano dallo sfruttamento degli animali, significa anche non comprare cosmetici, farmaci che sono stati prodotti sfruttando gli animali, testando sugli animali. Quindi, insomma, noi non ci vogliamo porre come insegnanti di vita, vogliamo semplicemente magari raccontare la nostra storia, come ci stiamo muovendo noi, e magari, insomma, spronare a fare qualche cosina minimo. Tanto dappertutto non possiamo arrivare, cioè noi qui come respiriamo qualcosa facciamo danno. Anche solo le piccole cose possono essere davvero di aiuto sia per l'ambiente, ma anche per noi esseri umani. Bene, Silvia, allora direi che ora ci ascoltiamo Up to Me. Io ti ringrazio per averci raccontato qualcosa di più sulle eBay, e noi ci vediamo domani sera al Gallery 16 dalle 20 in poi. Grazie ancora. Esatto, grazie a te e grazie a voi di Ukulele e a tutti quelli che hanno ascoltato. Grazie mille.